Prova 2. Ascolta i testi e poi scegli la frase giusta. Buongiorno, può aiutarmi? Sì, certo. C'è una farmacia aperta di domenica? Sì, in via Mazzini c'è la farmacia di turno. È lontano? No, è a 300 metri da qui. Basta arrivare all'incrocio e poi girare a sinistra. Grazie, signore. Lei è molto gentile. Si figuri, per così poco. Buona domenica. Buona domenica.